3 giugno. Questo angolo di mondo è talmente fuori mano che serve davvero un'energia non comune per arrivare fin qui. Se da un lato ciò mi toglie il peso dei visitatori occasionali, dall'altro le persone a cui voglio bene o che mi vogliono bene, in fondo è la stessa cosa, non si lasciano scoraggiare dal tortuoso viaggio in treno seguito da un lungo tratto in carrozza. Tra le mie tante fortune, poi, c'è anche la presenza di un solo vicino. Se avere dei vicini è inevitabile, almeno che ce ne siano soltanto uno, altrimenti come fai a vivere la tua vita, a leggere libri e sognare come più ti piace, se a qualsiasi ora ti piomba in casa gente per parlarti? E poi c'è sempre la certezza che tu o il visitatore direte qualcosa che sarebbe stato meglio tacere, e io ho un sacro terrore del pettegolezzo e delle malignità. La lingua delle donne è un'arma letale. Una delle cose più difficili da tenere sotto controllo e si lascia sfuggire le cose con facilità spaventosa proprio nei momenti in cui dovrebbe starsene tranquilla. In casi simili, l'unica via d'uscita da seguire è parlare ininterrottamente di cuoche bambini, pregando che la visita non duri troppo, poiché in tal caso è un disastro. Le cuoche, secondo la mia esperienza, sono l'argomento migliore. Basta menzionarle, persino le visitatrici più flemmatiche si rianimano, tanto le gioie e i dolori connessi a tali figure sono comuni a noi tutte. Per fortuna il nostro vicino e sua moglie sono entrambi tanto occupati quanto simpatici, sempre a correre dietro alla torma dei loro biondissimi figlioli e agli impegni dettati da una vasta proprietà. I nostri rapporti sono improntati alla semplicità più squisita. Io vado a fare visita alla signora una volta l'anno e lei 2 settimane dopo ricambia la visita. In estate ci invita a una cena e noi contraccambiamo d'inverno. Attenendoci rigorosamente a questa linea di condotta, evitiamo i pericoli posti da un'amicizia più stretta, ovvero, per dirla con altre parole, i litigi frequenti. La vicina è la quintessenza della signora di campagna tedesca, una donna non soltanto graziosa, ma anche piena di energia e senso pratico, combinazione assai efficace. Si alza all'alba per sovrintendere alla distribuzione del foraggio al bestiame, alla produzione del burro e alla consegna del latte da vendere. Mentre la maggior parte della gente dorme ancora, lei ha già fatto 1000 cose e quando gli indolenti sono ancora seduti a colazione, la vedi sul suo calessino che fa il giro delle fattorie per controllare il lavoro delle mamsels, ovvero le caposquadra, per ficcare il naso in tutti gli angoli, alzare i coperchi delle pentole, contare le uova appena fatte e dare un sonoro ceffone, se necessario, a qualche lattaia negligente. La legge ci consente di somministrare punizioni fisiche di lieve entità alla servitù, rimettendo alla discrezione del singolo la definizione di lieve. E la mia vicina sembra valersi con piacere di tale prerogativa, a giudicare dal modo in cui ne parla. Darei non so cosa per poter spiare dal buco della serratura quando questa minuta intrepida signora, tremenda nella sua collera piena di dignità, si mette in punta di piedi per mollare la sberla a una delle sue robuste fantesche, tanto grande e grossa che potrebbe mangiarsela in un boccone. Produrre formaggio, burro e salsicce in modo eccelso è un lavoro che richiede cervello, un'attività a mio avviso ammirevole, in tutto e per tutto degna dell'attenzione delle persone intelligenti. Che la mia vicina sia intelligente lo si capisce immediatamente dalla vivace prontezza del suo sguardo, da quegli occhi a cui non sfugge nulla e che sono tanto più belli quanto più vengono adoperati bene. Nel circondario è considerato un'autorità nel campo della norcineria. Per lei la produzione di salsicce non ha misteri. Sa curare i vitelli e ammazzare i maiali. I suoi figli, nonostante sia sempre in giro a lavorare, splendono di salute e pulizia. Da bravi bimbi tedeschi, con le loro codine biondissime, gli occhi che sfidano il mondo e le gambette ben tornite. Chi osa dire che una vita come questa sia squallida, noiosa e indegna di un'intelligenza di ordine superiore? A mio parere, e lo affermo con forza, è una vita meravigliosa, piena di salutare lavoro all'aria aperta, senza spazio per certi momenti di apatia, depressione e tedio, in cui ci si chiede che cosa si farà dopo. Momenti che fanno venire le rughe intorno agli occhi delle donne carine e che non sono sconosciuti neanche alle più geniali tra loro. Tuttavia, pur ammirando la mia vicina, non credo che cercherò mai di imitarla, perché so che tra i miei talenti non ci sono né il vigore né l'organizzazione. Bensì la deplorevole propensione a prendere un volume di poesie e andare a perdersi in un prato pieno di ranuncoli dorati, a sedersi sul tronco di un salice accanto al ruscello e poi dimenticare tutto, tranne i verdi pascoli e le acque tranquille, mentre il vento soffia felice attraverso i campi in festa. Per non parlare dell'infelicità che mi causerebbe dovermi confrontare con guance tanto caparbie da richiedere una bella dose di sberle. A volte nella mia solitudine irrompono visitatori che vengono da lontano e in tali occasioni mi rendo conto di quanto ognuno di noi sia assolutamente solo e distante dal prossimo. Mentre queste persone parlano, in genere di bambini, passati, presenti e futuri, mi ritrovo a meravigliarmi della lontananza immensa e invalicabile tra la mia anima e quella della persona che mi sta seduta accanto. Parlo di estranei relativi, persone che la bizzarria delle linee ferroviarie costringe a rimanere qui per un po' di tempo e quelle quali mi affanno a trovare interessi comuni prima di tornarmene nel mio guscio appena scoprono che non ce ne sono. A quel punto lentamente il gelo mi invade, sento diffondersi in me un senso di intorpidimento e non riesco più a parlare. Le bambine percepiscono il gelo nell'aria e assumono un'espressione vacua, mentre l'ospite pone la domanda di rito, ovvero a chi somigliano di più le mie figlie? Di solito la questione si risolve dicendo che May, la bimba di maggio, la più bella, ha preso dal padre e che le altre due, quelle insignificanti, sono il mio ritratto. Tale verdetto, benché l'abbia già sentito mille volte e sappia con certezza che verrà pronunciato, mi deprime ogni volta come se fosse la prima. Le bimbe sono piccole, inoffensive e buone, ed è brutto che siano usate come riempitivo della conversazione, che le loro fattezze siano dissezionate e i loro punti deboli notati e criticati, mentre sorridono timidamente di fronte al chirurgo, il quale si appropria persino del loro sorriso per commentare la forma delle labbra. Per fortuna non succede spesso e le bimbe in fondo rappresentano una delle poche cose che ho in comune con la massa delle persone, poiché pare che tutti abbiano figli. Il giardino invece non è un argomento utile alla conversazione e trovo incredibile quanto sia ristretto il numero di coloro che lo amano davvero. Fingono di amarlo, ma lo sento dal tono della voce che si tratta di un affetto tiepido. A giugno il loro interesse tocca la vetta, nutrito da gradevoli doni di fragole e rose. Ma se ci penso non conosco nessuno nel raggio di 20 miglia a cui importi veramente del proprio giardino, o che abbia scoperto i tesori di felicità che vi si celano e che con un minimo di applicazione, e se necessario versando qualche lacrima, possono venire alla luce. È dopo queste rare visite che sperimento gli unici momenti di depressione a cui sono soggetta. Poi mi arrabbio con me stessa, perché pur essendo ben nutrita, permetto che qualcosa di così poco importante guasti una singola preziosa ora di vita. Ecco il lato peggiore del disporre di abbondante cibo, abiti e confortevole riparo e non mancare di nulla. La minima provocazione ci mette a disagio e ci rende infelici. Reagiamo a disagi astratti come l'essere esclusi da un contatto più stretto con l'anima del prossimo, nonostante sia palesemente un'anima scioccherella, anzi, probabilmente non esista neppure. Le violaciocche antoniane sono tutte fiorite. Il giardiniere, in un raptus di ispirazione, le ha disposte in due bordure, proprio in prima fila, e non so come si senta ora che la fioritura nasconde le piante che stanno dietro, ma ho imparato un'altra lezione e non permetterò al prossimo giardiniere di portare scompiglio tra le mie violaciocche in modo tanto sconsiderato. Sono creature deliziose, delicate, nel colore e nel profumo. Sulla scrivania ne ho una coppa che spande fluvi in tutta la stanza. In ogni caso, disporle in file singole è uno sbaglio. Le ho fatte anche piantare a gruppi in mezzo all'erba, così è evidente quanto possano essere graziose. Una bordura di sole violaciocche antoniane color malve bianco. È sicuramente bella, ma non so quanto duri la fioritura né come appariranno quando finirà. Lo scoprirò tra una settimana o due. Mi chiedo se sia mai esistito un aspirante giardiniere costretto come me a imparare soltanto dai propri errori. Penso a quanti anni risparmierei al giardino se non dovessi imparare soltanto dai fallimenti, se avessi a disposizione una creatura gentile che mi suggerisce quando fare le cose. In questo momento gli unici fiori in giardino sono le violaciocche, le pansene, le aiuole di rose e due gruppi di azalee, le mollis e le pontica. Queste ultime sono ancora splendide, le ho piantate solo questa primavera e hanno cominciato a fiorire quasi subito. Ora, l'angolo riparato in cui prosperano con le loro sfumature delicate di arancio, giallo, limone e rosa, sembra sempre pieno di tramonti imprigionati. Che cosa possano diventare queste azalee quando saranno più grandi, posso immaginarlo dal modo in cui hanno cominciato la loro avventura nel mondo. Nelle giornate grigie e uggiose, l'effetto è assolutamente sorprendente. Perciò quest'autunno penso di piantarne una gran quantità davanti a una fascia di abeti che occupano un angolo alquanto cupo. Le mie rose Thea sono fitte di boccioli che non si apriranno per almeno un'altra settimana e da ciò deduco che da queste parti il clima non permette loro di fiorire dall'inizio di giugno fino a novembre, come invece sostengono tutti. 11 luglio. Non piove da 5 settimane, ovvero dalla vigilia di Pentecoste. Questo fatto giustifica in parte, sottolineo solo in parte, la delusione che mi hanno dato le mie aiuole. Il giardiniere, già demoralizzato subito dopo la settimana di Pentecoste, è impazzito e abbiamo dovuto mandarlo in manicomio. Si era messo ad andare in giro con una vanghi in una mano e una pistola nell'altra, sostenendo che così si sentiva più sicuro. E noi l'abbiamo sopportato pazientemente, come si addice alle persone civili che rispettano le ubbie altrui. Finché un giorno gli ho chiesto in tono blando, dopo che ha comprato la pistola, ho addolcito i toni e ho smesso di leggergli i libri di giardinaggio, di legare un rampicante che era caduto a terra. E lui si è voltato, mi ha guardato negli occhi per la prima volta da quando è qui e ha detto: «Sembra il Conte X, una grande celebrità locale, o una scimmia». Dopo queste parole l'abbiamo spedito in manicomio senza indugi. E quindi, vuoi per l'impossibilità di trovare subito un sostituto, l'ho trovato solo adesso, vuoi per la siccità, l'abbandono, la follia del giardiniere, i miei errori, il giardino è in condizioni pietose. Eppure, persino così malmesso, è il luogo che mi è più caro al mondo e i miei errori rinforzano solo la determinazione a perseverare. Le lunghe bordure di violaciocche adesso sono orribili, la fioritura è terminata e le violaciocche si sono ridotte a stecchi rinsecchiti. È una loro caratteristica. Ormai, fino alla fine dell'estate, le bordure non mi regaleranno più fiori. I papaveri giganti che avevo messo a dimora in aprile o sono morti o sono rimasti piccolissimi, come le aquilegie, mentre i delphinium chinano la testa stremati. Non c'è altro. Forse i papaveri non sopportano di essere trapiantati, forse non hanno ricevuto abbastanza acqua al momento della messa a dimora. Chissà. In ogni caso, domani seminerò i papaveri per l'anno prossimo. Voglio papaveri e li avrò anche contro la loro volontà e nessuno dovrà toccarli, solo diradarli. Insomma, non serve a nulla disperarsi, anche perché non appena mi siedo sotto gli alberi e guardo il cielo screziato e il sole che splende sui campi di grano a perdita d'occhio, le delusioni si smorzano ed essere tristi e scontenti sembra impossibile con intorno un mondo tanto radioso e gentile. Oggi è domenica e in giardino regna una quiete tale che mentre sto seduta qui al fresco a guardare le ombre allungarsi pigre sull'erba e ad ascoltare i corvi che litigano in cima agli alberi, mi sembra quasi di sentire le campane di una chiesetta inglese che annunciano la funzione pomeridiana. In realtà la chiesa più vicina è a 3 miglia da qui, non ha le campane e non c'è la funzione pomeridiana. Ogni 2 settimane assistiamo alla preghiera delle 11 e ci sediamo belli dritti in una specie di palco privato che dispone di una stanzetta sul retro, in cui possiamo ritirarci senza che nessuno lo noti ogni qualvolta il sermone ci sembra troppo lungo o quando ce lo impone qualche bisogno corporale. Da lì dietro sentiamo il pastore che prega per noi con la sua tonaca nera. D'inverno in chiesa fa un freddo tremendo perché non c'è riscaldamento e noi ce ne stiamo nel parco avvolti in molti più strati di pelliccia di quanti ne servano all'esterno, mentre il pastore, per non macchiarsi del peccato di indossare una pelliccia, accumula sotto la tonaca le une dopo gli altri giacche e cappotti. Così, man mano che l'inverno avanza, si gonfia sempre più fino a raggiungere dimensioni prodigiose. Per noi l'arrivo della primavera è annunciato dal progressivo assottigliarsi della sua silhouette. I fedeli se ne stanno tranquilli ad ascoltare il pastore che prega per loro e mentre cantano con voce monotona quegli interminabili corali, lui si barrica in un gabbiotto di legno che basta appena a contenerlo e ne esce soltanto quando ritiene che abbiamo cantato abbastanza. Noi comunque smettiamo solo al suo segnale e spesso penso a cosa potrebbe accadere se si sentisse male nel gabbiotto e ci lasciasse cantare all'infinito. Sono sicura che non oseremo smettere senza l'autorizzazione della Chiesa. Una volta gli ho chiesto cosa facesse dentro il gabbiotto, ma mi è sembrato assai scandalizzato e ha risposto in modo vago. Non fosse per il giardino. Le domeniche tedesche sarebbero giorni tremendi. Invece di domenica in giardino si tira un respiro di sollievo per la profonda tranquillità che vi regna, senza nessuno che rastrelli, spazzi le foglie o si gingilli in modo fastidioso. Ci sono soltanto fiori e lo stormire degli alberi. Ultimamente sono stata molto importunata dalle visite. non dagli ospiti casuali di cui ci si libera dopo aver loro offerto il tè d'ordinanza e il genere di chiacchiere che poi si rimpiange di aver fatto, bensì da gente che si trattiene e non vuole saperne di andarsene. Ho sprecato in questo modo tutto il mese di giugno, un mese radioso di calore e bellezza dall'inizio alla fine, intrattenendomi in giardino con persone che ho visto a colazione e che avrei rivisto anche a pranzo e a cena. Ma così un giardino non è certo un luogo dove puoi trovare la felicità. E poi questi ospiti avevano un talento particolare per scovare le mie panchine preferite e occuparle proprio nel momento in cui avrei voluto farlo io. Ci si sedevano a oziare con un libro preso dalla biblioteca e poi lo lasciavano lì per tutta la notte, aperto a faccia in giù, a inzupparsi ben bene di rugiada, come se non sapessero che ciò che è nutrimento per le rose è veleno per i libri. Per giunta mi facevano capire che se il giardino l'avessero gestito loro, l'avrebbero messo a posto già da un pezzo, laddove mia ferma convinzione che un giardino non sia mai finito. Adesso, grazie al cielo, se ne sono andati tutti tranne uno, cosicché posso riprendere fiato prima che ne arrivino altri. Sembra che la gente consideri interessante questo posto e che trascorrere del tempo in un angolo di mondo così disabitato sia qualcosa di originale. Infatti, gli ospiti erano sempre leggermente divertiti dall'idea di trovarsi qui. Irè è l'unica ospite rimasta. È una donna giovane di raffinata bellezza. I suoi occhi, quelle sopracciglia dritte e sottili, ispirano simpatia. Quando è a tavola, intinge il pane nella saliera, gli dà un morso e ripete l'operazione, nonostante la provvidenza, sotto mitite spoglie le mie, abbia fatto comparire dei cucchiaini nei punti strategici lungo il tavolo. Oggi, per pranzo, ha mangiato cotolette di maiale e insalata di cavolo con cumino, il tutto accompagnato dalla birra, e ora sta cinguettando melodie improvvisate, commoventi, con la sua voce incantevole. La sento dalla finestra aperta. È esile. Delicata, intelligente e simpatica nonostante la dieta di qui sopra. Quale prova migliore addurre a conferma della superiorità teutonica del fatto che riesca a produrre una tale musica dopo un pasto come questo? L'insalata di cavolo è un'invenzione obbrobriosa, ma non ne metto in dubbio l'utilità in quanto mezzo per stimolare la riflessione, e neppure voglio fare polemica visto quanto poetici sono i suoi effetti. In fondo non mi lamento certo del letame se contribuisce a far fiorire le rose. Ecco, a Irè do letame ogni giorno per farla cantare ed è la cantante più dolce e affascinante che abbia mai ascoltato, capace di comporre mentre gorgheggia. Quando comincia, mi affaccio alla finestra e osservo i miei piccoli amici nelle aiuole mentre ascolto quella musica che mi riempie di una gradevole malinconia nostalgica. Quanto è dolce la malinconia quando è senza motivo. Avevo appena finito di scrivere queste righe che la bimba di aprile è arrivata con il fiatone, seguita dalle altre, con le guance in fiamme, ha aperto il grembiule per mostrarmi tre gattini appena nati, gracili e ciechi, che aveva trovato nella legnaia senza la madre. «Guarda quanti sono!» ha esclamato trafelata. Sono stata contenta che questa volta si trattasse soltanto di gattini, perché poco fa si è seduta sull'erba ai miei piedi per farmi domande sul Liebergott. Siccome domenica la sua devota bambina Elle ha parlato del paradiso degli angeli, meglio non trascrivere le sue domande sul Liebergott. Quando invece è passata alle domande sugli angeli, ho tirato un sospiro di sollievo. Cosa si mettono come abiti? Ha chiesto nel suo misto di tedesco e inglese. Li hai visti nei quadri, no? Bei vestiti, lunghi lunghi e grandi ali bianche, ho risposto. Ali di piume? Credo di sì. Vestiti lunghi, tutti bianchi e belli. E sono femminucce? Bambine? Beh, sì. E i maschi non vanno nel Himmel? Sì che ci vanno, se fanno i bravi. E loro cosa indossano? Non so. Saranno vestiti come gli altri angeli, credo. Vestiti? Si è messa a ridere, guardandomi di traverso come se sospettasse di essere presa in giro. Che mamma buffa sei! Ha esclamato, evidentemente assai divertita. Una risatina squillante e contagiosa. Penso che faresti meglio ad andare a giocare con le tue sorelline, ho detto in tono molto serio. È rimasta seduta a guardare le nuvole in silenzio e ho ricominciato a scrivere. Mamma! Ha riattaccato poco dopo. Dimmi, ma gli angeli, dove li prendono i vestiti? Ho esitato a rispondere. Da Liebergott. Ci sono i negozi nel Hamel? Negozi? No! Ma allora dove li compri i vestiti in Liebergott? Dai, da brava, corri via, ho da fare! Ieri, quando ti ho chiesto del Liebergott, hai detto che domenica me ne parlavi e oggi è domenica. Raccontami una storia su di lui. Non mi restava altro da fare che obbedirle, perciò, sospirando, ho posato la matita. Allora chiama le altre, su. È corsa via e poco dopo sono spuntate tutte e tre dai cespugli e hanno cercato di salirmi in grembo. La bimba di aprile, quella che ottiene sempre tutto, si è presa alle mie ginocchia. Alle altre è toccato sedersi sul prato. Ho cominciato da Adamo ed Eva, tenendo presente che prima o poi il parroco le interrogerà al riguardo. Man mano che raccontavo, la bimba di aprile spalancava sempre più gli occhi e diventava paonazza. Sono rimasta stupita da un interesse così spasmodico, tanto più che le altre due sembravano distratte, occupate a strappare ciuffi d'erba. Ero appena arrivata agli angeli con le loro spade di fuoco, avevo annunciato che la storia finiva lì, quando lei è sbottata. «Te la racconto io la storia!» C'era una volta Adamo ed Eva che erano pieni di abiti e non c'era il serpente. E Liebergott non era arrabbiato con loro e potevano mangiare tutte le mele che volevano ed erano felici e contenti per sempre. Ecco! Si è messa a saltarmi sulle ginocchia con aria di sfida. Ma la storia non è così, ho detto piuttosto smarrita. Sì che è così, è più bella la mia. Dimmene un'altra. Ma queste storie sono vere, ho replicato severa, e non serve a niente se poi tu le reinventi a tuo piacimento. Un'altra, un'altra! Strillava, saltando con maggior foga i riccioli biondo platino che ondeggiavano. Ho iniziato a raccontare di Noè e del diluvio. Pioveva così tanto forte? Ha chiesto, assai preoccupata e interessata. Sì, giorno e notte, per settimane e settimane. E tutti si sono bagnati proprio tanto? Ah sì! E perché non hanno aperto gli ombrelli? Proprio in quell'istante ho visto la bambina che usciva con il vassoio del tè. E il resto della storia te lo racconto la prossima volta. L'ho fatta scendere dalle ginocchia con mio grande sollievo. Su, andate da Anna che vi dà la merenda. Non mi piace Anna, è stupida, ha detto la bambina di giugno che fino a quel momento non aveva aperto bocca. Le altre due sono rimaste raggelate dall'orrore. Sempre gentili ed educate per temperamento, evitano in ogni modo di ferire i sentimenti degli altri e gli è stato insegnato ad amare e rispettare la loro gentile e dolce bambinaia. La bimba di aprile si è ripresa per prima dallo shock e, giustamente indignata, ha puntato il suo dito contro la criminale. Una bambinaia così non andrà mai nel Himmel, ha scandito con l'aria di chi pronuncia una sentenza. 15 settembre. Questo è il mese delle giornate tranquille. Dei rampicanti che si tingono di cremisi, delle more. Un mese di pomeriggi dorati con miele nel giardino colmo di frutti maturi. Si prende il tè sotto le acacie invece che all'ombra scura dei faggi e la sera si accende il camino in biblioteca. Il pomeriggio le bambine vanno a raccogliere le more mentre i tre gattini, ormai grandi e grassi, fanno la toilette sui gradini assolati della veranda e l'uomo della collera spara alle pernici, lontano tra le stoppie. È come se l'estate volesse continuare a sognare per sempre. Difficile credere che fra 3 mesi saremo sotto la neve tutti infreddoliti. Qualcosa in questo mese mi fa pensare a marzo e agli inizi di aprile, quando la primavera esita ancora sulla soglia e il giardino trattiene il respiro in attesa. Nell'aria c'è la stessa leggerezza e il cielo e l'erba hanno lo stesso aspetto. Le foglie invece raccontano una storia diversa e il rampicante che si imporpora sulla facciata corre verso il suo ultimo e più incantevole momento di gloria. Come era da aspettarsi, le mie rose si sono comportate bene. Le Viscountess Folkestone e le Laurette Messimini sono state magnifiche, con quest'ultima che ha superato in bellezza le varietà più adorabili. I suoi fiori sono morbidi ciuffi aperti di petali rosa corallo che alla base scolorano in una tonalità giallo-bianca. Ho ordinato un centinaio di rose tea ad alberello da piantare tra un mese. Metà sono Viscountess Folkestone, perché le rose tea hanno questo modo di chinare il capo che ti costringe a inginocchiarti per vederle se sono della varietà nana. Ben inteso, approvo sentitamente che ci si inginocchi di fronte alla bellezza, solo che ci si sporca i vestiti. In ogni caso voglio mettere rosa ad alberello su entrambi i lati del vialetto della facciata esposta a sud e i fiori saranno all'altezza giusta per essere adorati comodamente. Ho soltanto paura che sopporteranno il gelo o meno bene delle varietà nane per il fatto che sono difficili da avvolgere nei teli di protezione. Come previsto, fra tutte le tea, le Persian Yellow e le Bicolor si sono rivelate un errore. Fioriscono solo 2 volte a stagione e per il resto del tempo se ne stanno ammosciate e depresse. Le persian yellow, poi, hanno un profumo strano e sono piene di insetti che le rosicchiano da dentro. Siccome fra un mese le farò togliere e raggruppare nel prato per sostituirle, ho ordinato delle safrano. Il semicerchio delle rose si trova proprio sotto le finestre ed è uno dei punti migliori del giardino, perciò voglio che sia riservato ai miei tesori più preziosi. Ho patito tante delusioni, ma sento che sto cominciando a imparare. L'umiltà e la più paziente perseveranza sono necessarie al giardiniere quasi quanto la pioggia e il sole, e ciascun fallimento deve essere un gradino verso il miglioramento. La scorsa settimana ho avuto un ospite che sa molte cose di giardinaggio e possiede una grande esperienza pratica. Quando ho saputo del suo arrivo, la mia prima reazione è stata cercare di abbracciare il giardino per nasconderla alla sua vista. Invece, dopo che l'ha esaminato da cima a fondo, ha detto: "Beh, ha fatto davvero miracoli!" Che sorpresa, che piacere quelle parole, quanto sono diverse dai giudizi che mi sono dovuta assorbire per tutta l'estate. Come avrei voluto stringere a me quel critico perspicace e indulgente al tempo stesso, capace di vedere l'intenzione che c'è dietro al risultato e di apprezzare le difficoltà di ogni genere che mi hanno ostacolato. Dopo una tale reazione, gli ho aperto il mio cuore e ho ascoltato con deferenza tutto quello che aveva da dirmi. Ho fatto tesoro di ogni suo consiglio e gentile incoraggiamento, tanto che avrei voluto che si trattenesse per un anno ad aiutarmi, una stagione dopo l'altra. Ma se n'è andato, come sempre se ne vanno le persone che ti piacciono. Lui, che è stato l'unico ospite della cui partenza mi è dispiaciuto. Le persone che amo sono sempre altrove e non riescono a venirmi a trovare. I conoscenti, la gente di cui non mi importa granché, invece mi riempiono la casa. Forse se potessi vedere di più le persone lontane non le amerei più tanto. Perlomeno così penso nei giorni di pioggia, quando il vento ulula intorno alla casa e la natura è sopraffatta dal dolore. Ed è accaduto veramente un paio di volte che amici cari abbiano concluso un soggiorno qui facendomi desiderare di non rivederli per almeno 10 anni. Credo dipenda dal fatto che nessuna amicizia regge la prova della colazione e noi qui in campagna crediamo che comparire per colazione sia un dovere. Il progresso della civiltà ha spazzato via i bigodini di carta, tuttavia, di primo mattino, la casalinga moderna ne ha ancora la testa piena, neanche fosse sua nonna. E io, pur capace di scendere in sala da pranzo per la colazione grazie a un'educazione rigorosa impartitemi dai miei genitori, lo faccio in modo meccanico, perché la mia anima, almeno fino all'ora di pranzo, non vuole saperne di svegliarsi a beneficio degli altri, se prima non la porto fuori a prendere un po' di aria di sole. Chi mai, già di primo mattino, può esercitare l'affabilità prescritta dalle convenzioni? L'ora di colazione è il momento in cui trionfa la sgradevolezza e l'irritazione. Sono convinta che le musele grazie abbiano sempre fatto colazione a letto.